America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Sono arrivato il 22 di ottobre, sono arrivato alla stazione dei treni a Toronto e avevo perso il treno per Windsor per 5 minuti. Allora ho preso quell'altro per London, mi sono fermato a London, ho dormito a London. Alla mattina mi sono alzato presto, ho ripreso il treno che è proseguito per Windsor, sono arrivato a Windsor e poi da lì mi sono cercato casa, ho trovato casa. E poi il 13 dicembre sono arrivati i bambini con la moglie. Younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me home. L'avventura continua, Giovanni Paolo Facchinetti, lo avrete riconosciuto, è il camionista che aveva deciso qualche anno fa di venire a lavorare negli Stati Uniti. Alla fine ha trovato la sua country road che l'ha riportato a casa, come ci dice, ci racconta questa fantastica canzone di John Denver che avete appena ascoltato. Beh, la strada di casa, la casa che voleva trovare da questa parte dell'Atlantico, l'ha portato in Canada. Avete sentito il dettagliato racconto di questo arrivo alla stazione, perde il treno, poi ne prende un altro. E Facchinetti è qui con noi, microfoni di America 24, per raccontarci in diretta il lieto fine di questa avventura cominciata un paio d'anni fa proprio qui ai microfoni di America 24 e che finalmente si è conclusa qui su queste coste atlantiche di cui vi parlo ogni giorno. Buongiorno Facchinetti. Buongiorno signor Mario Platero. Facchinetti, allora ci racconti un po' com'è andata. Lei a un certo punto ha deciso di provare la via canadese ed è riuscito a trovare questo visto, sta prendendo le lezioni, i figli sono arrivati, insomma si è creato un focolare familiare qui in America, in Nord America. Il Canada anche lui ricerca autisti come gli Stati Uniti, solo che negli Stati Uniti prima fanno giustamente lavorare gli americani, invece il Canada non trovando autisti e probabilmente autisti americani non vengono in Canada, allora deve andare all'esterno, ecco perché sono nati questi, come li chiamano, Labour Market Opinion, sono dei permessi di lavoro che rilascia il governo canadese per le persone fuori dal Canada. Lei ha già un'offerta di lavoro, mi sembra, no? C'è una sì, società. La ditta c'era già anche dall'Italia, dunque non è che sono venuto così allo sbaraglio. Come si chiama questa ditta? Genesis. Senta, ma Windsor è dall'altra parte di Detroit e lei sa che da quelle parti, beh, insomma, c'è stato un italiano piuttosto attivo a nome Sergio Marchionne. Sì, infatti qui vicino a Windsor c'è Detroit dove viene sempre Marchionne, anche perché anche a Windsor c'è una più di una di ditte della Chrysler dove assemblano le macchine che poi vengono vendute in tutta l'America. Ecco, a un certo punto quando le cose non funzionavano, beh, c'era stata questa idea della pizzeria, la pizzeria da fare in New Jersey se non sbaglio, e c'erano tutta una serie di ricette della nonna, della mamma, eccetera. Ecco, poi è stata archiviata questa idea, ma le resta magari l'ambizione di farle magari privatamente, per farli assaggiare magari agli amici, li state facendo, li preparate, avete portato le vostre tradizioni italiane in questo Canada freddissimo, in questo inverno micidiale, dove come lei stesso ha detto ormai siete coperti di neve? Sì, rifacciamo le cose che avevo fatto là da Franco e comunque teniamo alta, diciamo, la nostra italianità in casa. Giustamente fuori dobbiamo essere canadesi, parlare in inglese, essere comunque rispettosi come lo sono loro e come non si trovano rispettosità così in Italia, anche quando guidi o anche quando entri in un supermercato che ti tengono aperta la porta o anche quando entri in un qualsiasi ufficio che può essere il comune o un altro ufficio. Ci dica, ma lei ha trovato degli altri italiani lì a Windsor? C'è una piccola comunità? Lei sì, è un immigrato dell'ultima ora, dell'ultima generazione. Cosa succede quando si arriva così a cercare una casa, a cercare un posto, a cercare un lavoro? Ecco, chi ha trovato? Allora ho trovato tanti italiani amici, diciamo, alpini, dato che io sono anche un alpino e la via molto conosciuta si chiama Erie Street, dove c'è la piccola Italia, infatti viene chiamata via l'Italia. Ah, ci sono anche gli alpini lì a Windsor, fantastico. Sì, ho trovato tutta questa gente, Severino, Nello, Vittorino, che è il presidente degli alpini qui a Windsor, e comunque mi conoscono, ho raccontato la mia storia e mi stanno sostenendo. C'è chi mi ha dato un tavolo, c'è chi mi ha dato delle seggiole, poi siamo andati a prendere altre cose per arredare la casa prima che avvenissero i bambini con la moglie. Come si è trovata la famiglia, i figli, la moglie? Sì, la moglie, anche i bambini sono stati contenti, anche perché quando sono arrivati poi ha cominciato a nevicare anche la notte di Natale e è venuta giù tanta di quella neve e abbiamo fatto un bel Natale, comunque sono stati felici. Poi vedono anche loro strade larghe, macchine grandi, camion grandi, tutto grande. E sua moglie? Ma la moglie ha trovato una cosa che faceva fatica a trovare in Italia, sono delle patate dolci americane che lei le piacevano, forse perché le mangiava anche al suo paese in Perù. Ah, già, è vero, perché lei, sua moglie è peruviana, ma sua moglie aveva anche un mestiere, se non sbaglio. Ma questo mestiere lo potrà fare anche in America? Cosa faceva? La parrucchiera, se non sbaglio? Sì, faceva la parrucchiera, infatti quando è arrivata qua, dopo neanche 10 giorni, l'hanno chiamata subito in un negozio italiano da Vito, si chiama Vito lui, appunto prima delle feste di Natale e anche per l'ultimo dell'anno ha lavorato tantissimo. Scusi Facchinetti, solo un'altra cosa, perché qui ci sarà qualcuno che dice che noi inventiamo, che magari sua moglie non c'è, i figli non ci sono, ma sono lì vicino a lei, posso parlare con sua moglie, salutarla? Ecco, buonasera signor Platero. Oh, buonasera signora, beh siamo felici di essere... ma lei come si trova? Dal Perù è andata in Italia, adesso sta in Canada in mezzo alla neve, ma che sensazione ha? Per me è un sogno queste cose qua, perché non mi aspettavo che mio marito faceva queste cose qua, pensavo anche al futuro per i bambini, così siamo venuti qua in Canada, siamo qua in Canada, in Windsor. Facchinetti, adesso i bambini poi andranno a scuola, lei deve dare l'esame della patente, insomma ci sono anche delle difficoltà, che cosa pensa quando queste difficoltà, immagino, si presentano? E ogni tanto anch'io un po' di sconforto, perché comunque sono anche una persona come tutte le altre, è normale, però con un po' di preghiera e di forza della famiglia ce la farò, anche perché l'ho detto anche nella lettera, quando stai guidando un camion carico e sei in salita devi tenerlo su di giri, proprio perché sennò piano piano muore e poi ti fermi, e non deve succedere questo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo sentito Facchinetti finalmente alla guida del suo camion su questa costa atlantica, che era un po' il suo sogno, riunito con la sua famiglia, e dunque dedicandola a lui e pensando alle grandi strade americane, non posso che proporvi Willie Nelson, On the Road Again. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!